mamma. Mamma, quel vino è già nato. Ti servo oggi. Troppi bicchier ne avrà cannati. Vado fuori all'aperto. Mamma, sentite, io non tornassi, se io non tornassi, voi dovrete fare. Ball.